radio2pod.rai.it. Pronto? Dottore, guardi, io glielo giuro, i 300 euro glieli do. Però ci vediamo pure la settimana prossima, per favore. Chiara, ho detto no. Basta. È finita. Dunque io non potrò più sapere chi sono attraverso di lei. Senta, Chiara, perché non prova a cercare di sapere chi sono gli altri attraverso se stessa? Dottore, ma questa è bellissima. Lo vede che lei è proprio un grande. Adesso facciamo come facciamo sempre noi, che lei me lo dice, io poi capisco. No, ma Chiara, Chiara, non c'è più noi. Noi non esiste. Esiste lei. E allora che devo fare? Darmi 300 euro. Piscara pinna zizi gorro, tiricchi lalla pozzi vu, pira casi a carimbella, e canta furra casinna vinta io. Scivi dalle io te lando, e tappi ruppira tutta pacchi ricangu, la che pizza d'orra, mungioni, la chi urra caramacca stratta lao. Lori ben pai, c'è se le papu, la chi a chi da tu yande yado. Un anno e passa che siamo qui nella nostra autoanalisi o analisi di gruppo, insomma. E speriamo di non guarire mai così. Gli psicoascoltatori sono con noi sempre, no? Vabbè, no, beh, insomma, magari qualche passo avanti lo possiamo anche fare, però io sa Chiara che qualche cosa di lei l'ho capita. Per fortuna, sei la mia testa, mi conosci da 33 anni. Ecco, appunto. Allora, analizziamo un attimo la situazione, analizziamo lei. Allora, dunque, forte attaccamento ai genitori. Sì, questo nel bene e nel male. Che problema c'è, scusi? C'è problema. Il suo ultimo libro, su che cosa l'ha incentrato? Sulla ricerca dell'identità. Sulla ricerca del padre. Dell'identità del padre. Allora, lo psicanalista la molla, lei cosa fa? Lo cerco, lo voglio, è chiaro, mi ha mollata. Lei non lo sa che lo psicanalista è il papà. Ma questa testa è scema. Ma non è il papà di Clarita, si sente, c'è la voce diversa. È come simbolo, dicevo, lo psicanalista è una figura paterna. Lei è chiaro, mi si deve emancipare. Lei non lo sa qual è la regola, la regola generale. Bisogna mandare a quel paese le madri e i padri. Sì, vabbè, chi l'ha detto? Marco Bellocchio. Buongiorno, maestro Marco Bellocchio, buongiorno. Pensate un po', psicoascoltatori di Radio 2, dal 20 al 26 febbraio Los Angeles premierà tutta l'opera di Marco Bellocchio con una grande retrospettiva, e lui oggi premia noi perché qui sulla nostra chaise longue. Bisogna mandare a quel paese le madri e i padri? Era una domanda. L'inconscio trasforma le affermazioni in domande spesso, e viceversa. Prima avete detto un sacco di stupidaggini. Grazie, vabbè, così per divertirvi, chiaramente. Chiaro. Semplificare così. Cioè, io ho una certa età, insomma. Ma non faccia così, quindi... no? Però questo si chiama divulgazione, non tanto, no? Semplificazione, nel senso che appunto a noi veramente siamo, io prima di tutto... Vabbè, la separazione dal padre, dalla madre, la diversa separazione dall'uno dall'altro, insomma, senza ucciderli, senza distruggere, tutte cose un po' così. Però c'è chi ha la fortuna, non per dico darle... spazzatura in sorbetta, insomma. Però c'è chi ha la fortuna di poterle dare per scontate, no? Come lei. E magari ci sono persone che hanno invece non hanno questa fortuna di darle per scontate. Proprio per questo noi ci piace averla qui, anche per questo, per poter divulgare qualcosa di certamente troppo raffinato. Quindi forse per noi. Comunque è una prima scoperta. Non bisogna insomma cestinarle. Si dà addirittura per scontato. Si dà per scontato. Dipende, ragazzi, non lo so, mi è un po' duro ripetere, perché insomma ci sono padri e madri, non tutte le madri sono assassine, non tutte le madri uccidono o distruggono i propri figli, insomma. C'è anche qualche madre. A lei trova, lei non pensa che anche solo proprio il rapporto, dunque la vita è il problema? Che anche solo proprio dare la vita a un essere umano sia tutto sommato un atto di responsabilità, e dunque in qualche modo sia un atto... Di che? Sia un atto che poi viene in qualche modo, che va contraddetto, che poi quando cresci devi in qualche modo ribellarti a questo atto qua. No, io... Esistono ottime madri, perfetto. Beh, questa è già una scoperta. Questa è già una scoperta. Psicoascoltato di Radio 2. Ne esistono di pessime. E su questo, appunto. Però non tutte le madri sono. Ma senza dare un giudizio morale, ben inteso, sia chiaro, non è un discorso di. Certamente ci sono delle madri che fanno molto male ai loro figli, ma questo si sa. Sì, ecco, però di solito noi, a confronto anche con gli ascoltatori di Radio 2, sembra invece impossibile non farli gli errori proprio in quanto madre. È un po' questo che volevo dire, lei mi sta imbarazzando. Quanto amiamo il contraddittorio invece. Io, più una persona la stimo e più quando sta qui per me è un problema a gestire. No. Però, glielo confido. Però ecco... Ma no, è chiaro, io poi... ho un'esperienza molto molto lunga, evidentemente ne avevo bisogno, ne avevo necessità di confrontarmi non tanto con la psicoanalisi ma appunto in un'esperienza che tutti poi conoscono con il psichiatra Massimo Fagioli. Certo, ne andremo a parlare in maniera poi accurata. Però io non vorrei parlarne io, parlatene con lui direttamente. Magari potessimo. È invitatelo, penso che accetterà. Non so, perché a me ha sempre fatto anche un po' paura lui. Vabbè, io non voglio parlare, perché ovviamente siamo tutti delle persone più che adulte, insomma. Però certamente uno va dallo psichiatra perché ne sente la necessità, insomma, perché c'è qualcosa che non gli piace in se stesso, insomma. Poi fare tutta la trafila del perché, questo lasciamo perdere, insomma, perché è un percorso lunghissimo, molto serio, molto drammatico, in cui ci sono molti ciarlatani, molti buffoni, molta gente che, ma io non so, veramente la gente che chiede 300 euro a seduta. Anche di più, anche di più. Poi le faccio i nomi. Avremmo fatto gli incontri sbagliati. Poi durante la canzone. Io non li ho mai, per mia fortuna, incontrati. Ecco, ecco, poi durante la canzone le faccio anche magari i nomi. Psicoascoltatori Radio 2. Non sarà facile. Assolutamente. Proviamoci, cominciamo a dire sottoporre un po' di stupidaggine. Ecco, noi di solito cominciamo col chiedere ai nostri ospiti il primo ricordo e poi ci passiamo. Ma quando è, Marco Bellocchio, la prima volta che qualcosa le è sembrato veramente molto stupido nella vita? Prima di oggi, intendiamo. Sì, speriamo di non avere in qualche modo in auto. Essere l'incontro con la stupidità di Marco Bellocchio, beh, io sarei contenta. No, io tutto sommato. Adesso, a parte gli scherzi, quando è che qualcosa le è sembrato sciocco, stupido? Quando l'ha avvertita? Ci sto pensando anch'io, per quanto mi riguarda, sembrerà assurdo, ma anche a me qualcosa mi sembra più scemo. Sì, da me stesso. Sì, quando è? Ma la categoria della stupidità, io la sposterei sulla violenza, insomma. La stupidità è violenta, secondo me. Chi è stupido è anche violento, alcune volte inconsapevolmente. Quasi sempre, secondo lei? Quasi sempre inconsapevolmente? Ma c'è un passaggio, c'è una battuta di Sergio Castellitto molto forte nell'ora di religione, quando parla con un cardinale, dice: perché mia madre era stupida. Era stupida, sì. Effettivamente, ma non è una dimensione di disprezzo, ma proprio nel riconoscere un certo tipo di violenza, nel senso di che non capiva, non andava nel punto che era... invece centrale in un rapporto con un figlio. Ecco. C'è una non lo so se lei ha mai letto Walter City, Troppi paradisi. C'è una sezione intera del libro che si intitola La miseria dei miei, e in effetti per miseria lui intende proprio questa, no? A proposito di quello che dicevamo poco fa, i cattivi genitori che non lo fanno nemmeno apposta, e forse proprio perché non lo fanno apposta risultano molto molto dannosi. Beh, lì non bisogna separare la madre, il padre dalla società. Io faccio un po' anche... Non posso separare mia madre, poverina, che ha avuto tanti dispiaceri, che non... Certamente, 8 figli. Sì, non mi ha dato delle risposte che erano importanti per me. Però lì, tutto insieme, non si può separare dal contesto storico, dall'educazione cattolica, cioè da tutta una società, persino dal momento che era il dopo la guerra, il dopoguerra, insomma, dove lei è stata schiacciata da eventi che non dipendevano da lei, di cui e che lei però non inevitabilmente la condizionavano anche in quanto donna, in quanto madre, certo, e così come anche era, diciamo... non aveva la forza di sostenere una situazione così schiacciante. Ecco. C'era l'autografo di Mussolini a casa sua, vero? Quando era piccolo. Ma quello non c'entra niente. Voi passate, no. Siete un po' dissociati, ragazzi. No, sa, perché quello sì, allora, quello sì, tant'è che io... Questo no, sai che non, cosa non c'è? Non ne facciamo mistero. Però la cosa di è legato invece a tutta una dimensione... A me sembrava invece di essere in tema, si figuri un po' quanto la schizofrenia è con me. No, ma la salvo un attimo, scusi, non era... L'autografo di Mussolini era perché... Mio padre e mia madre si sono sposati durante il fascismo e hanno fatto una famiglia numerosa e Mussolini, oltre a dare dei vantaggi, credo economici, a livello fiscale, mandava una foto con dedica a chi superava gli 8 figli. Questo cosa significa? Significa che mia madre, in modo piuttosto tenue, mio padre, da conservatore, in fondo accettavano il fascismo e senza essere fascisti, però in qualche modo lo subivano e gli conveniva esserlo, insomma. Poi dopo mio padre, che era sì un conservatore, ma anche un uomo molto intelligente, capì che... Questo me lo disse mio fratello, che quando Mussolini entrò in guerra lui capì che era stato un gravissimo errore, insomma, che tanti italiani non volevano entrare in guerra. Ecco, non, lui aveva intuito questo, in questo senso non era un fanatico, però accettava la realtà perché voleva diventare qualcuno, voleva trovare una sua posizione in quella società e quindi... la famiglia numerosa e quindi l'autografo del Duce. Io mi domando se, perché vedo alla fine anche una certa serenità adesso nel maestro Bellocchio appunto, nel contestualizzare, nel dire appunto, erano più che altro colpe generazionali, ma questa coscienza c'era già durante infanzia e giovinezza o è qualcosa che è venuta dopo? Cioè a lei c'è stato un momento in cui lei dava le colpe ai suoi genitori o già capiva che era un problema generazionale? Ma le colpe, chiaramente, un artista parla attraverso quello che fa, certamente i pugni in tasca rappresenta un'opera di autoaffermazione, ma anche contro tutta una educazione, una famiglia, tutto quello che uno ha subito in quell'ambito lì. Quindi c'era una rabbia che era esplosiva in questo senso. Se le capiterà di vedere l'ultimo piccolissimo film che ho guardato, si chiama Sorelle Mai. C'è un atteggiamento anche di dolore, di malinconia, ma... La rabbia è totalmente... Perché è da lì, dall'infanzia in famiglia, che ogni infelicità lo conferma. Le piace questa affermazione? È lì, dall'infanzia in famiglia, che ogni infelicità inizio, è sua? L'ho detto io? Sì. Quindi prima di dire che è una cazzata, per cortesia, pensiamoci un attimo. Ma se l'ho detto io, ma non è che l'ho inventato io, ma mi sembra, non dico un'ovvietà, ma una cosa di buon senso. È chiaro che è lì che nasce il peggio e il meglio, è lì che ci si rovina oppure ci si può salvare, oppure se ci si danneggia molto poi c'è tutta una vita per rimettersi in piedi. Questo è verissimo, insomma. Quindi diamo ragione a noi stessi ogni tanto. L'ovvietà quando è personale, allora... è buon senso, questo è allora... Certe infanzie si mescolano, l'adolescenza diventano adolescenze mentre ancora pensano di essere infanzie. Forse lo fanno tutte, vedete, mi mancano anche le parole. Sì, è vero, sono in imbarazzo di fronte al maestro. Io do ragione Bellocchio, al maestro, ma Bellocchio. Già certo, guarda, bella la testa parte. Subito. Aspetta ad essere in imbarazzo, volevo chiedere una cosa. Sì, io, già siamo arrivati al 65 con i pugni in tasca. Ecco, sì, questo film. Siamo ancora al 65. Scusa, Clarita, puoi chiedere, perché... Parla male della famiglia, ma ci sono rimasti male a casa. Il cuore è scemo, è per sua stessa natura, quindi non se la prenda con la scemenza del cuore, perché sarebbe veramente... No, invece no, lo trova Io lo ricordo abbastanza bene. Ci sono stati due tempi. Il primo è lo stupore, E poi il fatto che in qualche modo non credevano, che, e neppure io credevo, che questo film scatenasse tanto, tanto interesse anche a livello non solo nazionale, ma mondiale. Ah sì, non e se quindi... l'aspettava? No, no, perché io l'ho fatto, l'ho detto credo mille volte, comunque lo ripeto. Così siamo per, un po' perché, duri di comprendere. Perché io mi ero diplomato in regia al centro sperimentale, certo, che non significa assolutamente nulla. No. Allora io ho detto, vabbè, voglio vedere se so fare il regista, e allora ho fatto questo. Quindi il primo motivo era di riconoscere, scoprire se avevo delle attitudini per fare il regista, ecco. Le allora, sembrò di sì? Sì, dopo mi sono divertito facendolo, ho capito, beh, quello può essere il mio mestiere, ecco. Ora, la mia famiglia, che tra l'altro aveva, questo è abbastanza... non divertente, aveva finanziato la ribellione, finanziato la propria autodistruzione. Allora furono stupiti, ci fu stupore, proprio perché questa cosa, che non avevano ben capito che cosa fosse, girava per il mondo. Successivamente, credo, c'è stata come una... un effetto ritardato e credo anche una controrabbia da parte loro, che quindi ma magari si chiama rancore, certo. No, rancore no, no. Comunque dice, ma perché parli con ammazzi la mamma e queste cose qua, ecco. Ma che e dopo nei film successivi ci fu anche una dimensione più difensiva e da anche critica, loro. Sì, mi ricordo. Preventiva anche. Mi ricordo, sì, in Salto nel Vuoto, soprattutto mi dissero no, basta. Dice no, perché scusi, voglio parlare. Io basta. Non parlo di voi, parlo, trasfiguro l'esperienza. È tutto metafora, certo. Però senta, a proposito del flirtare con la ribellione, no, da parte di chi invece è oggetto di quella ribellione, è curioso come adesso I Pugni in Tasca stia a teatro con suo figlio sul palcoscenico assieme ad Ambra Angiolini, no? Sì, sì, è vero. E che succede? Siamo diventati più buoni improvvisamente? C'è una rivolta? No, io credo che prima di tutto quel film si è subito connesso involontariamente, inconsciamente, con tutte quelle vicende politiche di quegli anni. Ne fu, non dico il manifesto, ma questo ribelle che peraltro ammazzava la mamma, il fratello, insomma un bel criminale, però insomma assurse quasi ad eroe di quella generazione. Oggi la dimensione politica non esiste più, è molto, molto annacquata, insomma. Però è interessante che questo personaggio, cioè Alessandro, in qualche modo vuole dominare all'interno della famiglia e non vuole uscire dalla sua famiglia. In questo senso corrisponde, non dico a, mi diceva ieri uno, allora è un bamboccione, non è tanto un bamboccione, perché beh, lui insomma, è un criminale, insomma. I bamboccioni non hanno però, i pugni in tasca, però no? È uno che non vuole uscire, così come tanti giorni non vuole uscire per necessità, perché non sanno più dove andare e quindi stanno dentro la casa. Ma questa operazione è stata fatta con molta calma. Ma l'hanno terrorizzata quando lei l'ha vista la prima volta a teatro? Beh, c'è una certa tensione. Insomma, chissà come mai me la immagino. No, ma è strano stesso, perché un bel caratterino come il suo. No, perché però è la persona più accomodante che io abbia. Io non ho voluto curare la regia, come lei sa, certo. È stata curata da Stefania De Santis. Però certamente mio figlio, con cui ovviamente ci sono stati adesso dei rapporti diciamo più sereni, più costruttivi, che interpreti peraltro un personaggio che è uno psicopatico, effettivamente, ma questo ci chiedeva, effettivamente no, vabbè, come attore penso che abbia fatto una bella prova, insomma, però certamente lì il padre gli batte il cuore, ecco. Il cuore di papà esiste, tutto torna. No, io sono molto sentimentale, non sentimentale, cioè io credo di avere dei sentimenti. Non si vergogni, sì, sì. No, sì, non mi vergogno per niente. È una cosa bella, è una cosa bella, dice il cuore. Però ecco, era il 65, il 68 doveva ancora arrivare, poi è arrivato il 68 a un certo punto. Sì, sì, è arrivato, io ero già abbastanza vecchio per allora, perché allora si era proprio, si doveva essere giovanissimi, già si era matuso a 20 anni, insomma, si dicevano... No, il 68 aveva poi, 30, Marco Bellocchio, poi però il 68 in qualche modo ha utilizzato non solo I Pugni in Tasca, tante cose, insomma, però questa ribellione contro la famiglia l'ha assunta in una chiave, diciamo, anche meno violenta, insomma. I figli che scappavano di casa, le scoperte sessuali, la contestazione, poi è peggiorata poi dopo negli anni successivi, ma in quegli anni è stato un qualche cosa di abbastanza in fondo pacifico il 68, spontaneistico, ecco. E noi lo facciamo appunto anche pacificamente, spontaneamente, dopo è andato peggio, dopo esplodere, ecco. Noi invece adesso diamo la linea al GR2, dopodiché appunto riportiamo da qui dal 68, pensate un po'. Questa è Radio 2, io sono Chiara Gamberale. Sì, e se Marco ci dà il numero di Massimo Fagioli, da domani andiamo da lui. Me lo vuole indispettire, però no, immediatamente no. Mi risponderebbe, secondo lei, Fagioli? Perché io ho un analista, non mi risponde più al telefono da quando ha detto di rompere con me. Ma di solito si risponde, però io non ho il numero, nel senso che... No, ce l'ho, ma non ve lo darei assolutamente. E poi, però è molto semplice, basta che chiediate alla libreria Amore Psiche, insomma, voglio dire, ci sono altri... È reperibile, bene, siamo sì, reperibile. La possibilità c'è. Tra l'altro a me, senta, ma no, stavo pensando che appunto il nichilista per Natale mi ha regalato l'ultimo libro di Amore Psiche, quello proprio... Sì. Quale? Amore Psiche, quello vostro uscito. Sì, quello uscito è molto bello. Molto bella anche proprio l'edizione. Un'edizione, no? Quello con la copertina bianca. Sì, però lo devo ancora. Sì, vabbè. Non l'avevi mai sentito tu, Amore Psiche? No. Vabbè, però. No, allora, eravamo nel. Ecco, a proposito dell'analisi, a proposito di date importanti, 68-77, nel 77 lei la incontra l'analisi, in che modo la rifiuta? Cioè, in che modo lei, quando è arrivato qui, appunto abbiamo cominciato a parlare prima di dare il via a questa chaise longue, lei ha detto: io no, a me Freud non mi sta molto simpatico. No, nel senso che io avevo fatto qualche anno, ovviamente dopo una serie di... dopo una crisi che era personale, che io avvertivo non attraverso dei fatti particolari, insomma, allora feci con Rulli, Petragli, Agosti, Matti Tazziale, poi insomma... Certo. Pensai che non erano i matti che erano fuori, ma insomma forse dovevo guardare un po' dentro me stesso. Insomma, allora ho fatto per qualche anno psicoanalisi da uno psichiatra. Poi dopo, attraverso un grandissimo amico, che purtroppo non c'è più, Piero Natoli, che è regista, lui mi parlò... dei seminari di analisi collettiva che erano condotti da Massimo Fagioli. Il mio atteggiamento fu prima molto diffidente, perché in fondo c'erano un po' quei luoghi comuni per cui se tu ti curi la tua fantasia si offusca, in qualche modo viene costretta, viene bloccata. Come no, sembrava un attentato alla creatività, sì, la psicanalisi. Esatto. E in effetti forse una certa psicanalisi lo è. Beh, io... però andai con curiosità e con diffidenza. Lì molto semplicemente trovai delle risposte, ma delle risposte molto semplici che riguardavano, non so, il raccontare un sogno e avere un'interpretazione che mi colpiva. Cose molto semplici, cose che avvengono anche da uno psicoanalista e tutto lì, insomma. Mm-hmm. E mi sembrò che quelle risposte in qualche modo non solo mi rianimavano, ma anche rianimavano la... non bloccavano, ma rianimavano anche la mia immaginazione. Tant'è poi, che ne sono usciti film. Infatti alcuni anni dopo feci un film in cui, che io amo molto, che è molto... che mi rappresenta molto, che è Salto nel vuoto, dove lì di nuovo riprendo certi temi dei pugni in tasca, però ripresentandoli in modo diverso, ecco. Poi per dopo esempio, è stata una lunga abbiamo storia. Citato poco fa il nichilista, che sarebbe la mia sottospecie di fidanzato, che in quegli anni lì io proprio prima di incontrarla gli ho chiesto: come mai tu non ti sei avvicinato a Fagioli? Io ho detto: da una parte mi faceva proprio paura l'esperienza che potevo vivere, preferivo invece la rimozione. Sì. Dall'altra, visti da lontano, dice, noi c'era grande ammirazione per il movimento, ma un po' sembravano una specie di setta. C'era questo sospetto che fossero una specie di setta. La cosa classica, naturalmente, nel momento in cui c'è una teoria e c'è un metodo radicale, cioè, quello che io cercavo non era assolutamente la carezza, la consolazione, quello me l'avevano già dato i cattolici, i preti. io non è che volessi essere bastonato, ma volevo delle risposte anche dure, radicali, ecco. E io personalmente le ho trovate, poi ognuno è libero di andare, di non andare, c'è chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto. Naturalmente poi nel corso degli anni c'è sempre stata una totale libertà, nessuno ha dato il suo nome, poi quando si è spostata via di Roma Libera c'è stata sempre una, non dimentichiamolo, un'offerta diciamo assolutamente libera, ma anche una gratuità totale, uno poteva, può essere andato per 20 anni in totale gratuità, ecco. Naturalmente è chiaro, poi ogni storia, ogni persona, ci può essere senz'altro chi è rimasto o ha idealizzato Fagioli e quindi ha spostato un discorso sulla cura in una chiave più fideistica, non lo posso negare, io non lo so. Io parlo della mia esperienza, insomma, certo. È stata sempre un'esperienza importantissima, radicale, ripeto, ma dalla quale ogni volta io ho potuto entrare e uscire. Per alcuni anni me ne sono andato, sono tornato, abbiamo fatto quelle esperienze molto, molto fuori dalla norma, le collaborazioni a 3 film, tutte e 3 diverse, e poi anche ad un certo punto una separazione, come adesso è accaduto, che io non rinnego nulla di quell'esperienza, però non vi partecipo. Non si vedono più. È del tutto... Ma ripeto, è una cosa che non voglio diminuire, è una cosa forte, no, molto forte, però in cui la libertà è un principio assoluto, ecco. Poi è chiaro, poi ognuno ha il proprio carattere, insomma, c'è chi... Però ecco, detto questo, della lei ha un po' di sospetto nei confronti invece delle terapie freudiane o junghiane, cioè della psicanalisi in cui si va ogni settimana in una maniera canonica? Beh, e certo, se tu vai semplicemente per avere l'aiutino, per essere consolato... Ecco, la consolazione, essere... quindi è quello l'aspetto che le dà fastidio, che le fa rabbia. Niente, è una... diciamo anche, non dico un crimine, ma però è qualcosa di disonesto, insomma. Lo psichiatra deve guarire, cioè deve portare il suo paziente a un'autonomia reale e non deluderlo. Questo vale per lo psichiatra, vale anche per il padre, la madre, insomma, per quelli che sono tutti i rapporti, insomma. Avevamo studiato tutto io e la mia testa, no, per intervistare Marco Bellocchio, invece ci sta penso, ma tu no, lei non ci sta portando niente. Proprio dove giustamente dove vuole lui. Però ce l'ha data, poi sì. Esiste il fantastico, tremendo mondo degli altri. Lei ha paura del giudizio delle persone, Bellocchio? Del giudizio umano anche. Proprio, sia di umano sia giudizio artistico. Beh, mi colpisce, sì. Non ne ho paura, però certamente se uno dice guarda hai fatto un pessimo film, mi dispiace molto, moltissimo. E se lei, poi se... dipende da chi lo... Se poi è una persona che io stimo, una persona di cui che ammiro, certamente... E lei si può pensare io, che lei è il mio regista preferito, a sentirmi dire che sono una scema all'inizio di questa seduta, come ci sono rimasta? È un pochino sì. No, però giustamente, come dice Fagioli, non bisogna avere paura della verità. Però a proposito degli altri, noi qua abbiamo un momento che si chiama Zona Cieca. Sa, la Zona Cieca è quello, no, di cui gli altri si rendono conto su di noi, mentre noi non ci rendiamo conto. Ma questa capita. È una teoria freudiana. Capita. Da buttare... Sì, certo. No, non è una teoria freudiana, tra l'altro. No, assolutamente. È nostra. Capita. E noi abbiamo qui Ambra Angiolini. Ciao Ambra, buongiorno. Ciao. Ambra, ciao. Hai paura pure tu? È tristissima. Hai paura anche tu una di Marco? La tristezza la senti nella mia voce? Ma come mai? Cioè, è mista. Sono triste, sono molto triste. Però condivido questa zona cieca e non so perché. E tu ti sei presa tanti complimenti. Devo dire delle cose che non... Ti sei presa tanti complimenti poco fa da Marco Bellocchio, per lo spettacolo. Ma io non li conosco, io preferisco la parte, quella che lui mi... fatto di Fagioli, io sono andata da lui più o meno con lo stesso, insomma, con delle mie problematiche che ho risolto, grazie a Dio, no, ma a lui a sì, che sta cercando di risolvere. No, davvero, insomma, ho sentito la storia prima e mi sembrava molto simile alla mia, però con un protagonista diverso, Marco, per quanto mi riguarda, insomma. Ah, no, quindi Fagioli sta Marco Bellocchio come Marco Bellocchio, esatto. Sta Ambra, no, vedi che la testa non arriva a capire. Assolutamente questo. Non vuole questa responsabilità, Marco Bellocchio. Io sai quanto ti voglio bene, però io non sono, non ho le capacità terapeutiche che ha Fagioli. Vabbè, ma io in alcune cose invece, soprattutto professionalmente, mi sono curata, grazie a Dio. Però aspettate, perché la zona cieca è proprio questa. Però la zona cieca è proprio questa, quando qualcuno ci attribuisce delle caratteristiche che noi non riteniamo da avere. Quindi ecco, una sorta di terapeuta. No, ma anche quando arriva lo schiaffo, insomma, io non so, ho avuto subito un'impressione, cioè avevo molta paura più che altro, per cui non era facile. Ma ti capisco, Ambra, non so come mai, ma ti capisco. No, poi passa, Chiara, dopo va via, dopo passa, passa tutto. Però, no, è vero, ma non va via, non è vero che va via, io sono ancora terrorizzata, ma mi piace così. No, ma però è vero che l'artista regista ha questa cosa della propria immaginazione, quella che è e quanto vale, e poi questo affrontare chi lo circonda, prima di tutto gli attori, insomma, per passare. Quindi c'è anche una messa in gioco assolutamente del suo carattere, insomma, una generosità, un'affettività, una capacità di comunicare. Io amo molto Ambra senso, Giolini, per questa capacità senso, da spettatrice e da fan. In questo senso il rapporto è molto intenso, molto profondo. Lei si diverte, si diverte nel senso profondo del termine, di più con attori che mettono a disposizione, certo, la loro... No, gli attori, a me piace molto lavorare con loro. Poi naturalmente ogni attore, poi ci sono gli attori e le attrici, è diverso. E Ambra che cos'è? Ambra, che cosa sei? Attore o attrice? Sono un fantasista. Sono un fantasista gay, così rimane nel mezzo. Ambra, veramente grazie. Grazie a tutti. Ci vediamo Marco, più tardi. Grazie. Abbiamo capito grazie, perché Ambra. Marco Bellocchio ci ha chiesto durante la canzone se Chiara Gamberale era un'attrice, perché abbiamo capito che con le attrici, ecco, lui picchia con più gusto. Però devo dire che aveva uno sguardo talmente tenero mentre parlava Ambra, sì, Angiolini. Sì. Le fa tenerezza, Ambra, le fa simpatia. Sì, c'ha qualcosa di profondamente anche fragile. Una ragazza molto forte, molto con una grande identità, ma anche con una fragilità. Questa è la sua, credo, corda che dovrebbe usare al massimo nell'interpretazione. Quando allora fate un film insieme? Adesso vediamo, è tanto complicato. Cioè, Italia mia, quando esce questo film? Quando lo giriamo? Lo so, però dai, quando ci sbrighiamo? È stato bloccato. Adesso, a parte di scherzi, come se lo spiega? Quello che sta succedendo, anzi che non sta succedendo a Italia mia? Ma io penso per un motivo che ho già detto. Uno, che ovviamente siamo in un'Italia spaventata, impaurita, smarrita, e che vuole divertirsi, vuole scherzare, vuole evadere, come si diceva un altro, un po' come nel dopoguerra, no? In cui c'erano i grandi capolavori del neorealismo, però i grandi successi erano Catene, Figli di Nessuno, oppure i film comici. Però li producevano. Uno può scegliere. No, ma perché così. Spieghiamo anche qual è la cosa. Qui Italia Mia, insomma, ha collezionato il maggior numero, il suo prossimo progetto sul potere in Italia, e ha collezionato il maggior numero di rifiuti da parte dei protettori. È un po'... Però, ecco, vorrei, l'ho detto e lo ripeto, sì. Io non amo fare né la vittima né il perseguitato. Io in fondo sono in fondo anche un privilegiato, perché mi dico: non fare quello, però ti possiamo offrire di fare qualcos'altro. Molti miei colleghi in questo momento non possono fare nulla, ecco, certo, in questo senso, è un momento in questo senso molto Poi io traggo da tutti questi no che io ho ricevuto la conferma che il progetto è giusto. Però che c'è in tutti i no, c'è sempre, soprattutto quelli che sono più articolati, ti danno sempre degli spunti anche per migliorare il progetto stesso, insomma, in questo senso. Ci sono, spesso sono dei no molto generici o anche un po' ipocriti, nel senso che non è mai che nessuno mi dica guarda, non si può fare, mi lascia perdere il discorso sul potere. Chiaramente poi chiaramente allora uno può riconoscere questo o quello, no, perché non ci è piaciuto, perché eccetera eccetera. Senta, purtroppo qui i tempi radiofonici sono contro di noi. Io invece le volevo chiedere perché io penso sempre a chi potrebbe un domani fare un grande film su Silvio Berlusconi. Lei secondo me è l'unico in Italia che potrebbe. Che finale augura la vita di Berlusconi perché fosse davvero cioè perché veramente possa diventare un film suo? Che finale le piacerebbe? Che la vita consentisse a Berlusconi per poi diventare un film suo. Ma il problema per un artista c'è un pericolo, fare un film su Berlusconi è troppo presente. Allora nel fare un discorso sul potere bisogna avere quel distacco per... e quindi io auguro a Berlusconi veramente una lunghissima vita. Forse magari se lui... siccome è uno degli uomini più ricchi del mondo... ad un certo punto cerchi altre distrazioni, insomma. Ma noi vogliamo vedere il film di Marco Bellocchio, quindi deve spiegarsi. Comunque non sarebbe questo Italia Mia, non avrebbe Berlusconi, avrebbe dei personaggi che possono somigliare. Però no, nel senso che mi pare il Caimano era proprio su Berlusconi, ecco. Sì, no, sì, no, ma infatti no, secondo me è un film non riuscito quello, molto molto meglio il Divo di Sorrentino, che però appunto c'è proprio quella distanza di cui lei parla. La grandezza del Divo è proprio la sua qualità formale, certo. È come ha trasfigurato. Ma infatti io dei pretesti quello a me piacerebbe vedere proprio trasfigurato da lei, perché com'è lo sappiamo fin troppo bene. Marco Bellocchio nella vita chi? Berlusconi? No, è Italia Mia. Senta, allora, ultima domanda, lei nella vita di tutti i giorni usa di più la testa, la pancia o il cuore? Direi tutte e tre, no, sì, tutte e tre, nel senso che io ho anche un lato piuttosto razionale, molto difensivo, però capisco che in certi momenti bisogna buttarsi, bisogna rischiare, e se uno non rischia, se uno non si apre, se non guarda negli occhi chi ha divorante, non combina molto. Ho vinto io. No, non credo, sì. Lei ha dato un contentino. Ha vinto Marco Bellocchio, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Radio2pod.rai.it